tra i due chi era più fascista all'epoca? Si è fascisti e basta. Come si è fascista? Ammesso che lo si era, non si è. O si era. Ma lei non po'... c'è chi è più fascista. Lei, non... lei un po', ma nessuno non... si è, né ancora io. No. Ignazio è nato nel 47, io sono nato nel 52, quindi qualche anno dopo la caduta del fascismo, nessuno dei due poteva essere. Certamente non abbiamo mai negato né neghiamo delle simpatie per il regime, indubbiamente. Come? Soprattutto come anche adesso, sopra... dice lei, anche adesso lei è un po' nostalgico. Magari adesso più che mai, ma fino come più che mai nel che dice, la certamente, cioè, beh, perché no? Nel periodo naturalmente del consenso, quando il regime viveva nel consenso negli anni 20 e gli anni 30, poi verso la fine degli anni 30. Ma adesso diceva delle cose pazzesche. No, sto dicendo quello che diceva il 99% degli italiani negli anni 20 e appunto, negli anni 30. Però negli anni 20 e negli anni 30. Sto dicendo che ho una particolare simpatia per quel periodo storico dell'Italia. Ma dica che il male assoluto è stato. Dica che il male assoluto. Ha detto anche Fini, il fascismo, male assoluto, la Russia. Mi farei uccidere piuttosto.